Mix 24 di Giovanni Minoli. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto. E allora mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. Nella politica italiana non perde mai nessuno. Io sono diverso, ho perso e lo dico a voce alta. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. E salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni. Bene, queste le parole che abbiamo ascoltato tante volte nella notte fino a oggi di Matteo Renzi, chiare, precise, senza equivoci. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Continuiamo la nostra analisi che si sta svolgendo oramai da mezzanotte su tutte le reti, anche sulla nostra rete. Cominciamo col professor Alberto Quadro Curzio, presidente dell'Accademia del Liceo e soprattutto economista. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, dunque, no, ha vinto nettamente. Le borse però non è che hanno fatto una tragedia, c'erano stati segnali nella notte abbastanza, diciamo, inquietanti, poi in realtà anche abbiamo sentito l'apertura della borsa da pochissimo, sì, perde il 2%, il problema è che due banche non riescono a fare il prezzo, ma insomma non c'è nessuna tragedia all'orizzonte, così sembra, oppure dobbiamo temere contraccolpi gravi sull'economia, professore? Ma io credo che questa partenza non traumatica sia incoraggiante, ma bisogna considerare qual è la base su cui questa partenza si fonda. Sì. Ed io ritengo che i mercati si aspettino una soluzione relativamente continuista, perché la politica economica del governo è stata impostata ormai da 2 anni e la soluzione continuista porta diretto ad un incarico al Ministro dell'Economia, che è molto accreditato in Europa e nel contesto internazionale e che è certamente uno dei 2 artefici di una politica economica che in questi 2 anni, sia pure con alcune sbavature, ha avuto una sua coerenza, una sua continuità. Quindi lei pensa che in fondo anche la non partenza di Padoan per Bruxelles per l'intergruppo economico sia un segnale di attesa di una chiamata? Io penso che potrebbe essere così. L'unico punto veramente preoccupante per noi, come ha detto lei prima, è quello delle banche, perché i nostri non performing loan sono sempre lì intorno a 180 miliardi almeno, e il problema di alcune banche, soprattutto il Monte dei Paschi, sono problemi alquanto seri, ecco, se non c'è continuità il problema lì si presenterà. E infatti il piano di salvataggio del Monte dei Paschi è prevista una per stamattina una riunione urgente degli advisor della banca senese. È una riunione che potrebbe dare qualche sorpresa secondo lei? Secondo me, se si delinea relativamente presto una soluzione che io chiamo continuista, ma non nel senso di svalutazione della soluzione stessa, con Padoan si andrà, cioè, ad una... Padoan come garante verso i mercati, verso l'Europa. Esattamente. E tra l'altro, ripeto, una scelta di politica economica che con qualche sbavatura non indifferente è comunque stata una scelta verso un rilancio della crescita, senza la quale il nostro paese non sistemerà mai neanche i conti pubblici, perché abbiamo visto come le politiche iperrigoriste, andando a deprimere il livello del PIL, non aggiustano i conti pubblici. Forse la reazione all'iperrigorismo non è stata tanto veloce, ma abbastanza tardiva, diciamo. Grillo, che è il vincitore vero del referendum, o comunque un vincitore importante, ha sempre detto però di volere un referendum sull'euro. Sta finendo l'era della moneta unica? Guardi, io mi auguro che ciò non accada, perché l'Italia, pur pagando dei costi, ha avuto dei vantaggi enormi dall'euro, ivi compreso il vantaggio di mettere i suoi conti pubblici, se non in ordine, sotto un ferreo controllo, che non si sarebbe mai ottenuto in una gestione, diciamo così, stile vecchia Repubblica, quando la spesa pubblica corrente andava a livelli che erano assolutamente incontenibili. Per conquistare un consenso penso che poi alla fine avrebbe distrutto il paese. Anche questo governo la spesa pubblica non è che l'ha tenuta sotto controllo moltissimo, anzi proprio per niente. Beh, non è tanto vero, perché anche stando alle valutazioni di esperti, in qualche modo c'è stato uno spostamento di spesa pubblica da spesa corrente a spesa per investimenti che hanno ricominciato a crescere. Io in particolare sottolineerei sia la riduzione della fiscalità sulle nuove assunzioni, sia i superammortamenti, cioè tutta una serie di cosiddetti sgravi fiscali che comunque vanno ad indebolire le entrate, ecco, ma che hanno avuto un effetto, io credo, interessante, supportare il rilancio almeno un 1%, ecco, che non è un granché, ma è qualcosa. Professor Quadrocurzio, però una cosa che colpisce è che le imprese, cioè il mondo del lavoro, le imprese soprattutto, erano praticamente in larghissima maggioranza per i sì, e quello dovrebbe essere il settore del paese che ha il polso della realtà, perché imprenditori, lavoratori nelle imprese stanno, invece non l'hanno avuto. Non lo trova preoccupante questo? Che cosa significa per lei? Io credo che nella vittoria del no ci stiano delle componenti profondamente eterogenee, la cui ricombinazione in forma organica è pressoché impossibile, perché ci stanno fior di costituzionalisti che hanno una sofisticazione straordinaria, importante, di lungo periodo, e ci stanno degli improvvisatori che di costituzionalismo nulla sanno. Mi sembra molto difficile combinare in una forma omogenea tutti quelli che hanno votato no. Sì, i no, continuisti costituzionalisti no. Sono personalità a cui va il massimo rispetto, perché guardano la continuità di una forma istituzionale che ha le sue rispettabilità. Professore, e invece i disfattisti sono tutta un'altra cosa. Professore, dal punto di vista economico, comunque questa è certamente una bocciatura della leadership tedesca, eh? Sull'Europa, dico naturalmente. Ma io trovo difficile dire anche questo, trovo difficile dirlo, perché, ripeto, secondo me il duo Padoan-Renzi ha impostato una politica economica che tutto sommato ha sempre trovato un consenso europeo e non un consenso alla Barroso, cioè del presidente precedente della Commissione, che era un mero esecutore degli ordini tedeschi, ma un consenso di Juncker che ha notevoli gradi di autonomia e talvolta persino spunti polemici con il cancellierato Schäuble. Però, professore, sarà così, però in ogni caso, diciamo la verità, se uno guarda la composizione del voto, è il Sud, diciamo, ha completamente negato ogni qualità al racconto economico e alle soluzioni economiche vere o presunte proposte dal governo. Il problema del Sud è il problema del nostro paese, e il governo, un governo da solo, non risolverà mai il problema del Sud. Il problema del Sud è un problema strutturale che richiede una continuità di politiche di lungo periodo. Oserei dire che meno di due lustri non vanno ad incidere sul problema del Sud, ed è la discontinuità di queste politiche ma che se non si comincia non capita mai niente. È così. Grazie professore. Grazie a lei. Ci sono degli aggiornamenti, Mario, su risultati di, diciamo, reazioni di mercati o qualcosa del genere? No, però secondo me stanno emergendo adesso piano piano. Invece i dati, le correlazioni tra il voto ed alcune situazioni. Per esempio, nei 100 comuni italiani con più disoccupazione ha vinto nettamente il no. Quindi una bocciatura anche della politica economica, ovviamente. E nei 100 comuni italiani con meno disoccupazione ha vinto il sì. Quindi adesso piano piano vengono fuori leggendoli tutti questi poi dati. Lentamente, secondo me è quello che dici tu, cioè è una bocciatura sonora della politica economica. Ecco, Pietrangelo, tu che non sei stato sorpreso da questo voto, perché l'hai sempre auspicato, sostenuto, guidato. Auspicavo e sostenevo, ma non credevo che sia arrivato. Non così tanto. Non credevo che sia arrivato. Già hai una tua lettura? La mia lettura è che la realtà batte la narrazione. La mia lettura è questa, anche perché temevo sinceramente che il voto al Sud fosse diverso, perché avevo visto mobilitate le clientele. Cioè una scena che in altri tempi... E invece non ha funzionato. evidentemente avevano anche lì è saltata una catena, diciamo, di comando in sì, qualche mi modo. Ha colpito l'osservazione di un responsabile degli scali aeroportuali siciliani, diceva: Renzi non si è mai visto, in questa settimana è già passato 3 volte. Quindi ecco, noi abbiamo adesso al telefono l'onorevole Francesco Boccia e l'onorevole Quagliarello, che ringrazio moltissimo. Comincerei da Francesco Boccia, che è presidente della commissione bilancio della Camera. Buongiorno, è lì che passa adesso, come dire, la cruda del lago è quella, no? Buongiorno. In commissione sulla legge di bilancio, che conseguenze immediate ci possono essere? Intanto, per fortuna, la legge di bilancio è stata approvata da un ramo del Parlamento. Questo era un impegno che avevano assunto, per la verità, tutti i gruppi parlamentari con il capo dello Stato. È stato opportuno mantenere questo impegno. Ora l'Italia ha la legge di bilancio approvata alla Camera. E toccherà al capo dello Stato fare alcune valutazioni ed eventualmente chiedere al Senato la massima celerità. Ecco, lei onorevole Boccia è stato sempre leale nel suo ruolo di presidente della commissione bilancio, però anche sempre molto, molto critico su moltissimi passaggi del governo. Questa sberla a Renzi è una sberla a Renzi, al governo, al PD, o si può ridurre solo a una sconfitta del Premier, secondo lei? No, è un insieme di no. Quando 20 milioni di italiani dicono no in maniera così netta, e non si può nascondere la testa sotto la sabbia. E lui non mi pare che non l'abbia fatto assolutamente. No. Sì, io penso che questa sia soprattutto una sconfitta politica, e quindi, diciamo, mi aspetterei lo stesso ragionamento al Nazareno nelle prossime ore. Cioè, lei si aspetta che si dimetta da Premier e da segretario del partito, questo per capirci? Per correttezza, sì. Poi ha tutto il diritto, ovviamente, certo, di ricandidarsi al prossimo congresso, e può farlo da iscritto semplice, perché certo, io penso che con questa notte si sia chiuso un ciclo durato 3 anni. Io stesso ho votato Renzi segretario. Renzi non aveva avuto però una delega in bianco a fare tutto quello che riteneva utile e opportuno dal suo punto di vista. Anche ho molto apprezzato le parole di questa notte, ma vorrei dirgli che oggi non dobbiamo preoccuparci di cosa fa Renzi, no, di cosa fa Boccia o di cosa fa Quagliariello, certo, ma di cosa serve agli italiani. Esattamente, e che cosa serve un governo? Intanto che questa mattina tutti i gruppi parlamentari dicano ai mercati che qualsiasi cosa serva alle banche, lo Stato, la Repubblica Italiana, lo farà. Perché che è un po' la posizione dei 5 Stelle questa, insomma, in qualche modo. Lei sa che la mia posizione da 2 anni sulle banche, non certo, ho condiviso nulla lo so bene, sì, sulle banche, l'ho ribadito in Parlamento, ho fatto le proposte, non sono state accettate. Oggi servirebbe un po' di umiltà e servirebbe dire che sulle banche noi non consentiremo a nessuno di speculare sul nostro paese e serve che lo Stato ci sia. Detto questo, ora tocca alla politica, nel senso che il no è un no ovviamente alla riforma costituzionale, è un no anche allo stile di guida di questi 3 anni, perché chi ha trasformato il referendum in un referendum politico sul governo purtroppo è stato segretario Renzi del mio partito. Certo, naturalmente. Coi mercati stanno mettendo sotto pressione il debito pubblico e i titoli bancari. Che risposta deve dare il paese? Lei dice, se ho capito bene, è lo Stato che deve rispondere, quindi non so se si deve usare la parola nazionalizziamo, ma insomma stiamo lì vicino. Se serve si può fare anche con le nuove regole europee. Queste, sì, ho sentito spesso impropriamente il ministro Padoan dire su alcune cose l'Europa non ce lo consente, poi abbiamo fatto 3 decreti, penso agli indennizzi, quindi agli obbligazionisti con le subordinate, certo, di Etruria e delle altre banche poi andate, diciamo, nel salvataggio con i fondi. E quindi più che mai lei non se lo augura un governo Padoan, se ho capito, se riesco a capire. No, io penso che sia prematuro, penso che Padoan abbia guidato la politica economica di questi anni. Che, l'ha guidata, ma non tanto bene secondo lei. No, ma io sono stato, come lei sa, e lei è stato critico all'opposizione sempre della politica economica. Sulla politica economica ho riserve che ho sempre manifestato. Penso che sarà necessario continuare sulla riduzione della pressione fiscale, soprattutto sul lavoro, ma come lei sa, io gli 80 euro li avrei messi spesi altrimenti, esatto, riduzione dell'IRPEF. Questi temi, se non altro, potremmo riprenderli almeno nella direzione del PD martedì. Immagino di sì. Senta, ma Renzi lascia, l'ha detto. Ecco, se lascia la segreteria anche, chi tratta con Berlusconi, con Grillo, con gli altri? Cioè, il problema della continuità c'è o no? Ma no, io penso che questa fase di transizione debba ancora gestirla lui, ovviamente. Parlando del partito, no, naturalmente. No, parlando su se stesso, come ha fatto. Cioè, diciamo, parlando, lei sta parlando del partito, ovviamente, sì. Certo, no, ecco. Io penso che è responsabilità nostra ora dare un governo al paese nel più breve tempo possibile. Ma tecnico o politico? Un governo tecnico o politico? Ma guardi, io non credo mai ai governi tecnici, nel senso che Ciampi fu definito governo... Sì, sì, d'accordo. Non c'è più governo politico, più politico. Ho amato stesso. Esatto. Tende a ricordare, per ragioni di demagogia politica, quello di Monti, sì, tra i governi tecnici, e io preferisco ricordare quello di Ciampi. Sì, senta, ma mi dica una cosa, lei è stato sempre molto vicino a Letta. Pensa, Enrico Letta naturalmente, pensa che si apra uno spazio per un rientro in politica direttamente di Enrico Letta? No, chi vuole impegnarsi in politica si impegna senza aspettare gli spazi. Enrico Letta ha fatto una scelta di vita andando a Parigi, ora c'è un congresso, chiunque di noi abbia delle cose da dire può candidarsi al congresso o può sostenere mozioni al congresso, questo vale per tutti. Io penso che questi anni abbiano, sotto alcuni aspetti, raccontato un paese che aveva certe caratteristiche, un centrosinistra nuovo e diverso, fatto da persone libere e fatto da... Cioè, diciamo che la narrazione... Fatto, mi consente di dire anche fatto in alcuni casi da... qualche maggiordomo di troppo. Qualche maggiordomo di troppo. Enrico Letta ha scelto una terza via, che è quella di mettersi da parte, a guardare, deciderà lui cosa fare, ma qualsiasi cosa si decida di fare, inevitabilmente bisogna misurarsi col consenso del partito. Ovviamente. Senta, ma Bersani e D'Alema, ovviamente immagino chiederanno la testa di Renzi anche nel partito. Lei, se fosse così, che linea adotta? Lei è perché Renzi molli anche il partito, se non ho capito male? Sì, guardi, io sono sempre contro quelli che chiedono la testa di qualcuno. Sì. Penso che sia mai come in questo momento necessaria la responsabilità. Ho apprezzato molto le parole di Renzi questa notte. Penso che debba gestire lui questa fase di transizione e poi seguire l'esempio di Bersani del 2013. Cioè, e quando ha ammolato. Fare un passo indietro, all'epoca trovammo la soluzione Epifani come soluzione di traghettamento, certo, poi e qui ne troveremo un'altra. Bersani decise di non ricandidarsi, aveva il diritto anche di farlo, non lo fece. Renzi ha tutto il diritto di ricandidarsi alla segreteria e ci penserà durante i mesi che ci separano all'inizio del Senta, congresso. Un'ultima cosa. A questo punto devo dire prima inizia, meglio è. Quindi subito sarebbe meglio. Senta, gennaio, un'ultimissima cosa, ma per lei questo presidente di transizione, il presidente del Consiglio di transizione che bisognerà fare subito, ce l'ha in mente un nome ideale? No, guardi, come no? Povero, scusi, vive lì, vive di politica, ce l'avrà un'idea? Guardi, lei sa meglio di me che sono tra quelli che non vive di politica. No, diciamo vive di politica nel senso che sta là in mezzo. Sì, ma pur stando in mezzo cerco di evitare di... nutrirmi solo di politica. No, vabbè, non in questo momento è necessario, d'accordo, mettersi alle mani sagge del presidente della Mattarella. Va bene, grazie presidente, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie, ecco. Gaetano Quagliariello, buongiorno, le chiedo scusa dell'attesa, so che ha degli impegni, ma volevo sapere, è finita come è finita, lo sappiamo. Adesso, secondo lei, questo risultato porta all'archiviazione di Renzi sicuramente, ma la trattativa per fare chi, con che cosa, chi la farà? Ma vede, io credo che questo sia un problema dell'attuale maggioranza. È in quel perimetro che bisogna trovare una soluzione. non credo che ci sia né la possibilità né l'utilità per il Paese che si confondano i ruoli. Noi dobbiamo comprendere, non siamo a metà del guado, siamo alla fine di una legislatura. Appunto. Manca un anno. Io credo che alcune cose il Parlamento le deve fare e l'opposizione è bene che in Parlamento abbia un atteggiamento assolutamente responsabile. Ecco, allora questo tradotto in un linguaggio comprensibilissimo, cosa significa? Cosa bisogna fare e cosa vuol dire atteggiamento responsabile rispetto a cosa? Io penso che bisogna fare una legge elettorale, questo subito. Assolutamente bisogna farlo e questa volta speriamo la faccia il Parlamento, speriamo che non si faccia con un voto di fiducia e su questa cosa non ci deve essere un atteggiamento, diciamo, di chiusura preconcetta. E lei prevede, lei davvero prevede tempi rapidi per fare una legge di Parlamento con un paese spaccato dopo questo referendum in questo modo? Ma vede, io penso che il paese è certamente spaccato e questo è inevitabile. È inevitabile se si è impostato un referendum e in generale una vicenda per spaccare il paese, e questa è la conseguenza. Se devo dire la verità, sentivo Boccia e riflettevo su una cosa, che tutto sommato dal punto di vista della spaccatura e della anche stabilità del paese, stiamo meglio oggi che se avesse vinto il sì, perché il quadro della vittoria del sì sarebbe stata la immediata scissione del PD. Sì. Una maggioranza traballante, probabilmente fibrillante, una sorta di partito della nazione fatto da Renzi. D'accordo, questo è quello che non è capitato. È un grande girotondo. Allora, ora adesso invece abbiamo sentito che si apre il congresso del PD. Esatto. Ovviamente per questo ci vorrà un tempo, io credo. Certo, qualche tempo ci vuole. Che da qua a giugno noi dobbiamo fare una legge elettorale. Ecco, nel frattempo questa legge elettorale deve avere qualche caratteristica certa. Per esempio, un proporzionale con i 5 Stelle? Ma senta, ovviamente questa è una discussione. No, perché lei è esperto di queste cose. Quindi, sì, per questo cerco di non parlarne alla radio, anche perché insomma, le cose sono vanno viste nei particolari. Però certo, io penso che una legge che consenta una ricomposizione, diciamo, delle famiglie politiche dopo questo grande tsunami e nello stesso tempo agevoli la formazione di governi senza arrivare a quella pretesa assurda di avere il governo la sera delle elezioni, soprattutto nel momento in cui non c'è un bipolarismo nel paese, perché tre poli ci sono, è assurdo, vuol dire semplicemente dare la maggioranza a chi ha più o meno un terzo dei voti nel paese, o anche forse addirittura meno. Ecco, io credo che questa è una soluzione sulla quale si può andare. L'altra cosa, due turni? No, io penso che noi dovremmo andare verso una legge a un turno e credo che si possa ottenere. Ecco, si possa pensare a un proporzionale molto corretto. Molto corretto. Se posso dire una cosa, l'altra cosa che esce fuori da queste elezioni, e dobbiamo trovare il modo di far scegliere ai cittadini, magari ci sono i collegi, ci sono le preferenze, così si può discutere, però una delle cose che ha orientato il referendum è che insomma i cittadini si sono sentiti espropriati di un diritto di scelta. D'accordo, però io volevo chiederle, proprio perché lei è, oltre ad essere un fine politico, anche un esperto di questa materia. Lei parlava della ricomposizione delle famiglie politiche dopo questo tsunami. Naturalmente è necessario, però ricomporre vuol dire trovare leader. Trovare leader vuol dire mettersi d'accordo sul metodo, sul modo per trovare leader. Il centrodestra è sicuramente una grande parte di questo no che ha vinto insieme ai 5 Stelle, ma la leadership del centrodestra mi sembra che sia molto lontana, intesa come scelta unitaria. Sono necessarie le primarie per tutti? Ma vede, io non sono mai stato d'accordo sul fatto che il problema prioritario del centrodestra fosse quello di trovare un leader. Beh, ci vorrà un programma prima e poi un leader. Ci vogliono, secondo me, tre componenti. Uno, una comunità regolata, cioè delle regole che premino in qualche modo il merito, che non rendano le scelte casuali. Ma io faccio sempre questa considerazione: Trump, prima di vincere nel paese, ha vinto nel suo partito, quindi un modo per insomma stare insieme, e questo è assolutamente necessario. Questo manca, perché sì, noi a, certo, lungo, per questo dicevo, a lungo nel centrodestra abbiamo avuto un padrone, abbiamo avuto insomma Berlusconi, sì, che è stato insomma, ora noi dobbiamo, sì, passare, sì, dalla, sì, prima alla seconda generazione del centrodestra, diciamo, quindi sono necessarie le primarie, come dicevo prima. Ma ecco, io arriverei alle primarie alla fine, cioè, alla scriviamo fine. Scriviamo delle regole, sì, poi almeno su 7 temi, e cioè fisco, lavoro, welfare, immigrazione, Europa, questioni etiche. Cerchiamo di trovare delle soluzioni condivise. Quando dico questo, voglio dire, non è che dobbiamo sacrificare le nostre sensibilità, però se ci vogliamo candidare al governo, gli italiani, certo, devono sapere, senta, che cosa vogliamo fare su, certo, queste cose. Senta, onorevole Quagliarello, poi dopo si sceglie il primario. Senta, un'ultimissima cosa, onorevole Quagliarello, la ringrazio. No, e comunque, naturalmente, una legge elettorale, poi a un certo punto bisogna sedersi al tavolo insieme ai 5 Stelle, non è, possibile evitarlo questo, no? Sì, e non è un dramma, anzi bisogna farlo. In qualche modo una delle cose positive di questo no è che per una strada completamente inaspettata, un po' 5 Stelle si è costituzionalizzata. Certo, è insomma, quello che dicevano ieri sera nella conferenza stampa. Io ho fatto campagna elettorale, cioè, insomma, Renzi pensava di rappresentare la Cozzaglia e mi ha mandato in televisione con la senatrice Taverna. Certo. E invece quella cosa lì è stato un modo nel quale due mondi differenti si sono parlati. Ovviamente si sono parlati su quello su cui si potevano parlare, certo, cioè le regole. Le regole, quindi possiamo dire per chiudere che Grillo non è certo il vostro alleato numero uno, ma non è neanche il vostro nemico numero uno. Beh, d'altra parte il nostro elettorato, il nostro popolo ha dimostrato che se proprio è chiamato a scegliere tra il centro-sinistra e 5 Stelle, preferisce 5 Stelle perché preferisce l'incerto al certo. Certo. L'ha dimostrato a Torino, beh, visto, l'ha dimostrato a Torino e a Roma. A Roma. E a Roma. Ora, certo, può piacere oppure no, ma questo è un dato di fatto. Non c'è nessun dubbio. Senta, lei cosa si aspetta? Un governo di che genere? Oh, guardi, io devo dire la verità, credo che, ripeto, questo secondo me è stato l'aspetto più brutto del discorso di Renzi stanotte, che un po' comunque trasudava nella sua prima parte di questa insostenibile leggerezza che secondo me è stata punita dagli italiani, cioè il tentativo di scaricare sul fronte del no il problema del paese. E il fronte del no è un fronte eterogeneo. Sì, però adesso il governo bisogna farlo. Il governo, appunto, lo e lei si ha deve un'idea? Fare nel perimetro di questa maggioranza. Io credo in continuità con questa, con quindi, questa maggioranza. Quindi anche lei è dell'idea di Padoan o qualcosa di simile? Ovviamente evito di dare consigli al Presidente della Repubblica, d'accordo, anche perché gli hanno tirato un po' troppo la giacchetta. Va bene, in d'accordo. Grazie, onorevole Quagliarello, la prossima. Grazie mille, 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. X24. Preferisce. Vabbè, Mario, sono uscite alcune cose da, sì, questa, da molto questa chiacchierata. Sì. Molto interessante. Allora, diciamo due cose rapidissime al volo. Congresso subito nel PD, si apre una cosa molto delicata per Renzi, certo, e a mio avviso sarà per lui non facile mantenere la leadership. Sicuramente non sarà più come l'abbiamo conosciuta fino a ieri. Le cose che ha detto Boccia sono, secondo me, significative. E l'altra cosa del PD è che emerge dalle cose che ha detto la solitudine. Quagliariello è esattamente quella che dici tu, la solitudine del PD. Cioè il PD oggi, per paradosso, avendo perso in questa maniera drammatica il referendum, è un partito che ha pochissime carte da giocare, perché è un partito che non ha forza aggregante. Mi spiego meglio. I doppi turni hanno dimostrato che gli elettori del movimento... Cioè è più facile per i 5 Stelle aggregare i voti del centrodestra. Non ci sono dubbi. Gli elettori 5 Stelle votano a destra, gli elettori di destra votano in 5 Stelle. C'è lo stesso terreno comune, cosa che non ha il PD. Il PD non ha forza federatrice, cioè non ha sfondato al centro, come diceva. Esatto. Esattamente. E c'è un errore di cui discutevamo prima. Renzi un anno fa avrebbe dovuto chiudere, tra virgolette, ovviamente, questo PD, non avendolo fatto, ne è prigioniero. Un'altra cosa che dice Quagliariello, importante secondo me, è che c'è una sorta di teoria dei due forni allargata alla destra, cioè se questa, diciamo, omogeneità tra virgolette dell'elettorato la traduciamo in fatto istituzionale, questo significa che la destra può trattare la nuova legge elettorale, la cosa più urgente, ricordo, in agenda, anche con i 5 Stelle, sul quale ha mostrato, parole sue, nessuna preclusione. Con chi tratta il PD la legge elettorale? Questo è il punto chiave. Comunque il punto avanzato della proposta di Renzi era quella di fare davvero un passo avanti, che non c'è stato. Non c'è stato. Perché bisogna dire anche che c'era anche un coraggio nella proposta di Renzi. Sì, c'era un coraggio, c'era una sfida profonda al paese. Pietrangelo, Salamino. Arriva. Realtà batte narrazione 1-0. Per esempio, nella ripartizione del voto, l'81% tra gli elettori dai 18 ai 34 anni ha votato no, mentre invece gli ultra cinquantenni si sono buttati sul sì. Non è stata l'accozzaglia a vincere, ma questa atmosfera natalizia dove le aziende del liberismo mandano a casa i dipendenti prima della Santa Vigilia. Pure i cestini di Natale mancano, i pezzi di argenteria del renzismo, come Andrea Guerra, ex Luxottica, oggi manager di Italy, ai giovani coi contratti da precari, tipo 400 euro al massimo, ancora l'altro giorno dava questo suggerimento: non pensate allo stipendio. Realtà batte narrazione 1-0, perché nel segreto dell'urna lo stipendio ti vede, Andrea Guerra no, e il referendum finisce male per Matteo Renzi, perché anche l'hashtag non se la passa bene. È stato tutto un addio al ciaone, un addio alla rottamazione, un addio a Leopolda di aperitivo e di governo. L'Italia ha cambiato verso, anche se a mille ce n'è di storie e di fiabe da narrare. La cupiditas servienti è stata sconfitta, a parte il Fatto Quotidiano e La Verità di Maurizio Belpietro e Il Giornale, ma in attesa dell'esaurirsi del patto del Nazareno siglato da Berlusconi, tutti i giornali si sono schierati dalla parte del già dimissionario Matteo Renzi. Sul fronte televisivo invece perfino Mediaset era schierata col governo, e perciò, oltre al telegenico Barack Obama, il cui endorsement, Giovanni, è proprio letale, hanno visto David Cameron fotografato. Sì. No, adesso c'è la Merkel, perché gli ha fatto le auguri anche la Merkel. Anche la Merkel, quindi, come Cameron, andrà in una panchina a mangiare le patatine fritte. Però sapete, anche Barbara D'Urso può dirsi sconfitta. E nulla, caro. No, lei ha vinto, scusa, no, ha avuto tutti e due. Ma a tutti. Insomma, si capiva. Dai, su. E nulla ha potuto, caro Giovanni, la RAI di Antonio Campo Dall'Orto. Tutti gli sforzi dei testimonial squillanti sono risultati vani. La realtà batte la narrazione. Avesse fatto testo la vetrina d'Italia, l'establishment, caro Mario, era facile da prevedere la vittoria di Renzi, ma 10 punti di differenza tra il no e il sì è sutura che non sutura. 20. Io ne ho fatto una metà, perché ci sono gli altri 10 che sono sutura interna, non quella esterna. Oh, ci pensate, nulla ha potuto un premio Oscar, però, Roberto Benigni, nulla ha potuto un premio Strega, Francesco Piccolo, e nulla di nulla, caro Giovanni, ha potuto chi? Michele Santoro, il cui Robin Hood fece cucù. Cioè, la realtà batte e picchia come un fabbro, e la narrazione torna a Pinocchio. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti. Io però una cosa la voglio dire. Dai, dico, io penso che in ogni caso la drammaticità di questa situazione è descritta dal fatto che in Italia si trovano le unità sempre e solo contro, sì, certo. Mai per qualcosa, perché naturalmente il tema della Costituzione non è stato il tema dominante di questa campagna elettorale, no. Ma è stato quello di Renzi sì, Renzi no, colpa sua, una scelta, tutto questo è una discussione aperta, però si riesce a trovare un'unità, una forza, una maggioranza quasi sempre solo contro. Secondo me questo non è un segnale da paese, come dire, no, anche maturo. Anche perché vabbè, ma anche Renzi era contro la realtà. No, no, ma tu hai fatto il tuo saramino che io condivido, penso l'abbiamo fatto tante volte, il discorso sulla narrazione, sullo storytelling che racconta il reale o racconta quello che uno sogna che vorrebbe che fosse. E quindi questo sono d'accordo, ed è tanto vero quello che dici, che le nostre crisi noi non le risolviamo mai. Per esempio l'America ha avuto la sua rivoluzione adesso e c'è Trump, certo. Gli inglesi hanno fatto la Brexit, hanno la May, cioè, come dire, ci sono sempre degli esiti certi. Noi qua probabilmente passeremo giorni a discutere su quale sarà la soluzione infatti della crisi. Sarà questo di nuovo, lì, perché una volta che hai ucciso il nemico, però non c'è però la soluzione. Il cerino resta inevitabilmente a Mattarella. Più che a Mattarella, secondo me, resta al PD. Al PD, perché la gente, come non c'è dubbio. La gente non è che ha votato no perché gliel'ha detto Grillo, perché gliel'ha detto Berlusconi o perché gliel'ha detto Bersani. Ha votato contro. Ha votato contro chi aveva costruito un racconto della realtà che non corrisponde al vero. Però possiamo dire una cosa, c'è un dato positivissimo tra i molti, secondo me, del voto, come sempre, e cioè che emerge una domanda chiarissima dell'elettorato italiano, dei cittadini italiani. Diteci la verità. Sì, e cambiate politica economica. Diteci la verità. Questa diteci roba qua, perché Renzi verità. Non è che ha fatto una politica di austerità, Renzi ha speso un sacco di soldi in questi 3 anni, ma dal punto di vista elettorale non hanno pagato. E allora, secondo me, bisogna fare delle riflessioni molto profonde e fare delle azioni. Sì, perché bisogna fare delle cose, le riflessioni. Cioè, fare delle cose significa cambiare la politica economica. Tu hai fatto gli 80 euro, 10 miliardi l'anno a chi già aveva il lavoro. Il ponte di Messina. Vabbè, quello non l'ha fatto. Io parlo di soldi veri che non sono andati, per esempio, ai ceti produttivi, ai professionisti, alle imprese, come... Fin dal primo giorno che io ho visto gli 80 euro ho detto, ma com'è possibile questa cosa? E quello in tanti erano contro. Cioè, erano contro e lui l'ha fatto. L'ha ripetuto. È una scelta. 800 24 00 24, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Mix 24. Allora Mario, c'è una bolla? Sì. Mi sembra sull'Inghilterra, no? Sì, no, sempre Fleetwood Mac, Dreams. Che voce soave. Allora, sì, è per i classici paradossi della storia, che si diverte a giocare a dadi e fa finta di non avere un ordine, e in realtà ce l'ha sempre, perché la storia è onesta, inesorabile e alla fine puntualissima. Oggi si discute di Brexit in tribunale, cioè la Corte Suprema inglese si riunisce per ascoltare le varie tesi pro e contro l'applicazione dell'articolo 50 a parte del governo. Come sapete, il procedimento è stato è sub iudice, è sospeso. Sì, io mi faccio una domanda, però Mario, scusate, sì, ti interrompo. Falla. Se quella è la patria della democrazia, sì, è di fronte a un popolo che si è espresso in modo chiarissimo 4-10 parrucconi riescono a dire no, non è vero il Brexit, io non d'accordo capisco con più te. Niente, io dov'è sempre, la democrazia? Io dico sempre, il fatto politico è superiore al fatto, diciamo, tecnico formale. La cosa interessante per i partiti di questa cosa è che si discute di un antico potere, che appunto, è il Crown Power, di rappresentare il Regno Unito all'estero. Sì. Questa è politica estera. Quindi chi fa scattare l'articolo 50? Il governo o il Parlamento? E il voto del popolo conta o no? Niente, pare. Vorrebbero non farlo contare mai. Molto divertente. Questa è la cosa, va bene. Intanto, per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci dedica oggi? Oggi una canzone per chi si è arreso, ha riconosciuto l'amore e ha deciso di fermarsi. Con disperazione, però. Dick, Dick, io mi fermo qui.